Letture di Radio 24. Nella recente classifica dei paesi più felici del mondo, ai primi posti, come prevedibile, si trovano le nazioni più ricche. Quello che dovrebbe sorprendere, invece, è l'ottavo posto ottenuto dal Bhutan, uno dei paesi più poveri del mondo. Dovrebbe, perché in realtà il piccolo paese asiatico da diversi anni figura ai primi posti nelle classifiche dei paesi ordinati in base alla felicità. Qual è il loro segreto? Lo racconta il sociologo Domenico De Masi in un articolo pubblicato sull'ultimo numero di Style Magazine. Il suo nome significa Terra del Drago ed è una nazione di appena 758.000 abitanti, incastrata tra il Tibet e l'India sulla catena dell'Himalaya. Vi si parlano due lingue, Dzonga e inglese, e vi prevale il buddismo Mahayana. La sua monarchia costituzionale è oggi retta da un giovane re di 37 anni che ha studiato in America, si è laureato a Oxford e ha poi ottenuto 7 lauree honoris causa in varie parti del mondo. Con un PIL pro capite di appena $2.914, il Bhutan si colloca al 116 posto tra tutti i paesi del pianeta, ma è riuscito a entrare nella top 10 degli stati più felici al mondo, mettendo in pratica un concreto rispetto per l'ambiente e bilanciando la prosperità economica con la felicità profonda. Perciò non punta sul PIL, bensì sulla FIL, la felicità interna lorda, calcolata in base alla qualità dell'aria, alla salute dei cittadini, all'istruzione, alla ricchezza dei rapporti sociali, all'intensità della vita interiore. Grazie all'equa distribuzione della ricchezza, ancora una volta dunque, il Bhutan si dimostra superiore ponendo alla base del proprio benessere gli stessi fattori che il Dalai Lama elenca nel suo libro L'arte della felicità: l'intimità, la fiducia, l'empatia, la compassione, il pensiero duttile, l'equilibrio, la sincerità. 5 volte al giorno ogni abitante del paese, per dimostrare a se stesso di non avere paura della tristezza, si ferma a riflettere sullo scopo della vita e della morte, pensando che il passaggio dall'una all'altra è come gettare vestiti vecchi per indossarne di nuovi. Il nostro reddito pro capite è 12 volte superiore a quello del Bhutan, ma noi saremo felici solo quando avremo seppellito i bisogni alienati della ricchezza e del potere, sotto i bisogni radicali dell'introspezione, del dono, del gioco, della bellezza e della convivialità. Nessuno vi muore di fame. Grazie all'equa distribuzione della ricchezza, nessuno in Bhutan muore di fame. Non esistono mendicanti né criminalità. Il 90% della popolazione ha accesso gratis alla sanità e all'istruzione pubblica. Ma soprattutto, grazie all'intensità e alla dolcezza dei rapporti sociali, il benessere spirituale e sociale si accompagna all'esistenza frugale ma dignitosa. Così una nazione piccola, inerme e remota, costretta dalla natura ad affrontare quotidianamente i disagi di un clima impietoso e di un'economia povera, con il suo esempio costringe tutti i popoli ricchi e potenti a ripensare il concetto di felicità e i modi per raggiungerla. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Domenico De Masi, La conquista della felicità, dal numero di febbraio della rivista Style Magazine. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Letture di Radio 24. Nella sua rubrica sul Corriere della Sera, lo scorso 1 marzo Aldo Cazzullo aveva risposto ai molti lettori che nei giorni precedenti erano intervenuti sulla polemica scatenata dalle palme piantate da Starbucks in Piazza Duomo a Milano e sulla decisione della multinazionale di assumere solo migranti per protesta contro le iniziative messe in atto da Trump. Ecco cosa scriveva Cazzullo. Cari lettori, da giorni sono inondato di messaggi contro le palme di Piazza Duomo, quasi tutti negativi. È passata in secondo piano quella che a me pare la vera questione, lo sbarco di Starbucks, che delle palme è sponsor. In linea di massima sono favorevole alle nuove iniziative, a maggior ragione se creano posti di lavoro. Ma l'apertura in Italia di Starbucks, come italiano, la considero un'umiliazione. Perché Starbucks è il più clamoroso esempio al mondo di Italian Sounding, di prodotti che suonano italiani, ma non lo sono. In tutto il pianeta, a cominciare dalla casa madre americana, il menù è scritto in italiano, dall'espresso al cappuccino. Ma non è caffè italiano, non è lavoro italiano. Sui pacchi in vendita c'è scritto Caffè Verona e in piccolo si precisa Made in Seattle. I veri produttori italiani, da Illy a Lavazza, hanno tentato di rispondere aprendo le loro catene. Hanno ottenuto qualche successo, ma non hanno le dimensioni per competere. Deciderà il mercato, che non si ferma certo con il proibizionismo. È vero, i fast food in Italia esistono, ma non hanno messo fuori mercato i locali tradizionali. A Roma, ad esempio, il vero fast food è la pizza al taglio. Sono convinto che, pur essendo il popolo più esterofilo, gli italiani continueranno a preferire il tradizionale espresso in tazzina rispetto a quello nei bicchierini di plastica. Starbucks rappresenta una filosofia, oltre che una sorta d'ufficio per chi un ufficio proprio non ce l'ha. Forse anche i nostri bar diventeranno più ospitali. Sono però curioso di vedere quanti dei 350 posti di lavoro annunciati a Milano andranno a giovani italiani e quanti a giovani immigrati. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Aldo Cazzullo Starbucks in Italia, umiliazione per un italiano, dal Corriere della Sera del 1 marzo. Una settimana dopo, Cazzullo risponde a un lettore che scrive: Caro Aldo, le scrivo per la prima volta per esprimere un'opinione contraria alla sua. La scivolata salviniana della conclusione del suo intervento critico verso Starbucks, dove si chiede quanti dei 350 posti di lavoro annunciati andranno a giovani italiani e quanti a giovani immigrati. Non è da lei. Riccardo Alemanni, Cinisello Balsamo. Ed ecco la risposta di Cazzullo. Caro Riccardo, a me pare che molti non abbiano compreso un punto fondamentale. Il prezzo dell'immigrazione lo stanno pagando le classi popolari. A Brera, ai Parioli, alla Crocetta, il problema dell'immigrazione è se la filippina o l'equadoriana, equadoregna è un termine che ci siamo inventati noi, a Quito e a Guadalajara nessuno si definisce così, è ammalata e non può venire a fare le pulizie. A Quarto Giaro, a Torbella Monica, alle Vallette, il problema dell'immigrazione è la casa popolare, il posto all'asilo nido, il letto in ospedale, la coda al pronto soccorso e ormai anche il lavoro. Perché è evidente che l'arrivo incontrollato di centinaia di migliaia di giovani disposti a lavorare molto per poco salario e magari in nero, certo non nel caso di Starbucks, rappresenta un caso di dumping sociale. Fa la fortuna di imprenditori senza scrupoli, ma manda fuori mercato intere categorie di lavoratori italiani. Ieri le badanti e le colf, oggi molti lavoratori manuali, domani gli altri. Il mantra che ci viene ripetuto è: l'immigrazione è una risorsa. E non c'è dubbio che molti immigrati siano ottimi operai, contribuenti fedeli e anche imprenditori coraggiosi. Ma nessun paese al mondo può reggere un flusso intenso come quello che riceve oggi l'Italia senza che si producano reazioni di intolleranza e razzismo, che vanno condannate, sempre e comunque, nulla le può giustificare. Eppure bisogna cercare di capire. Questo lo scrivo da sempre, non da ora. Da Salvini mi divide tutto, tranne la personale cortesia, direbbe qualcuno. Le assicuro che Salvini, quando smette la maschera che indossa per andare in TV, è una persona cortese. Ma chi è il vero salviniano? Chi chiede un'immigrazione governata, con ingressi regolamentati in base alle esigenze del mercato del lavoro, con diritti e doveri per i nuovi italiani, compresi i ricongiungimenti familiari e la cittadinanza legata al compimento della scuola dell'obbligo, senza attendere la maggiore età? O le anime belle, rimaste ferme alla concezione irenica dell'immigrazione, ignare che quello che per i privilegiati è un affare, per i poveri può diventare un problema? E quello che avete ascoltato era l'articolo di Aldo Cazzullo «Il prezzo dell'immigrazione lo pagano i nostri poveri», dal Corriere della Sera dell'8 marzo. I libri scritti dagli youtuber, al di là del loro valore letterario, raggiungono vendite che superano spesso le 100.000 copie e hanno, se non altro, il merito di riportare alla lettura le nuove generazioni. Con grande rabbia, però, dei lettori abituali e di quelli che si considerano gli unici veri scrittori. La rivolta corre su Amazon. Basta guardare le recensioni delle decine di libri di youtuber di successo, quelli che nei loro video da milioni di contatti spaziano dalla narrazione demenziale di se stessi alle videogiocate in diretta, pubblicati bulicamente negli ultimi 2 anni prevalentemente da Mondadori, per trovare quasi esclusivamente sentimenti di incredulità, sconcerto e indignazione, diretta verso gli editori, ma pure verso i ghostwriter di questi volumi, costretti a scrivere frasi adolescenziali e concetti rasoterra. Trovo incredibile che questi soggetti senza uno straccio di titolo di studio abbiano la possibilità di pubblicare un loro libro. Ma cosa hanno da raccontare? I loro 20 anni di vita davanti a uno schermo? Scrive uno dei tantissimi lettori. E un altro. Vergognoso e irrispettoso verso chi in questo campo avrebbe tanto da dare ma non ha la possibilità di questi pagliacci. Il problema, se così si può chiamare, è che i libri degli youtuber, grazie alla fama dei loro autori, aiutati da eventi come i famigerati oltremodo squallidi firmacopie, sfiorano spesso o superano le 100.000 copie, obiettivo che in Italia è raggiunto da autori che si contano con le dita di una mano. Loro, invece, diventano agilmente bestseller vendendo libri a non lettori, adolescenti che in libreria non ci entrano mai e forse non ci entreranno mai più e acquistano il libro soprattutto come un feticcio. La sensazione è che il libro sia diventato un accessorio obbligatorio della fama, capovolgendo quello che dovrebbe essere il percorso naturale, cioè che la fama nasca da romanzi veri. L'altro sospetto è che la pubblicazione di autobiografie di basso livello, rivolte a 12enni che però solo 30 anni fa leggevano Se questo è un uomo o La fattoria degli animali, non crei lettori forti, mentre toglie spazio agli autori di valore. Rivolgiamo la critica a Stefano Peccatori, direttore generale Mondadori Electa. Mi vanto, ci scrive per risposta, di essere l'editore di libri che vengono letti dalla prima all'ultima pagina, che portano migliaia di giovani e giovanissimi in libreria e che parlano il loro linguaggio. Basta con questo snobismo culturale che ha portato l'Italia a un pubblico di non lettori. Perché leggere un libro è il miglior incentivo alla lettura. E poi, credete che molti che si definiscono autori lo siano veramente? Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Elisabetta Ambrosi «Appaio, dunque scrivo». Il mercato dei libri salvato da chi non legge. Da Il Fatto Quotidiano del 7 marzo. L'ultima tendenza dei ladri di rame, spesso di origini rumene, sono i furti nei cimiteri, che grazie alla scarsa sorveglianza sono ormai diventati dei veri e propri bancomat per i ladri. Nei cimiteri si può trovare di tutto, ma nelle mire dei ladri ci sono innanzitutto gli oggetti di metallo. Il fenomeno si ricollega perciò al mondo sommerso dei predoni di metallo, in particolare di rame, ma negli ultimi tempi sta aumentando vertiginosamente anche la richiesta di ghisa e bronzo, che rivendono tutto a prezzi praticamente stracciati. Se il colpo va in porto senza che nessuno riesca a scoprire il ladro sul posto, questo tipo di furti è praticamente pulitissimo. La refurtiva, consegnata agli acquirenti, solitamente viene fusa e reimmessa sul mercato come materia grezza. Delle lettere, dei portafiori, dei candelabri, delle statue, non rimane praticamente nulla. Non mancano nemmeno i casi in cui a essere rubati sono oggetti di uso comune, che vengono lasciati dai parenti del defunto sulla tomba accanto alla lapide. È il caso, ad esempio, dei genitori straziati dal dolore che posano accanto al cippo del figlio dei giocattoli, delle macchinine, dei pupazzetti. In questo caso i ladri riescono a valutare il valore degli oggetti e nel caso stabiliscano che ne valga la pena, non si fanno remore a portarseli via. Il loro obiettivo è sempre lo stesso, trovare qualcuno a cui rivenderli e anche in questo caso trovare la merce rubata è difficile, soprattutto nel caso di oggetti prodotti industrialmente in serie. Ma non è certo a questo che si fermano i ladri. Il cimitero è una città di morti ai margini della città dei vivi e agli occhi di chi sa ben guardare e se ne frega della minima legge morale, della pietas da osservare al cospetto del riposo dei defunti, si spalancano tantissime opportunità. Qualche settimana fa, al cimitero di Poggio Reale di Napoli, un carpentiere venne arrestato dalla polizia perché scoperto, armato d'ascia, a tentare di divellere e poi rubare la copertura in piombo di una cappella gentilizia. Pochi giorni fa, a Verona, un 41enne è stato fermato in macchina con decine e decine di oggetti rubati ai cari estinti. A Monza la situazione è al limite della sopportazione. A Sala Consilina, nel Salernitano, l'amministrazione comunale pensa all'installazione di impianti di videosorveglianza. Insomma, quello dei cimiteri è un problema che non tiene conto di nord e sud, di centro e periferia, ma coinvolge l'intera penisola. Le aree destinate al riposo dei defunti sorgono solitamente fuori dai centri abitati, in ossequio ai minimi requisiti di igiene pubblica entrati a far parte dell'ordinamento italiano dai tempi della dominazione napoleonica. E quasi mai sono dotati, per ovvie ragioni, di telecamere di sorveglianza e, in troppi casi, persino dell'illuminazione notturna minima. Così i cimiteri, praticamente indifesi e in troppi casi lasciati nel degrado, sono diventati dei veri e propri bancomat per i ladri. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giovanni Vasso, Così i cimiteri diventano i bancomat dei ladri, da Il Giornale del 6 marzo.